sei molto meglio di quello che credi. Mi piace la bocca, il tuo culo, i tuoi piedi. Quando ti siedi e la tua gamba va su e giù, e mi telefoni e mi dici come sei tu. Se tu amore vuoi sapere, che brutti scherzi che gioca il destino. Tu stai fuori la notte, io esco il mattino. Ma che libidine mi dà nell'oscurità sentire i messaggi che mi lascio come quello che fa. Lo sai che mi va, ho voglia di baci, mi basta se parli la bocca, ah, la tua bocca e brividi. Sei molto meglio di quello che credi. Ti immagino al buio che telefono in piedi, in mezzo al casino della stanza, mentre parli con me. E dici che l'alba ma mezzogiorno stai prendendo il caffè. È quasi meglio che starti vicino. È molto più strana, più sexy l'altra parte del filo. Ma che limiti ne mi dà nell'oscurità sentirti sorridere e poi cambiare tonalità. Ti aspetto domani, ti prego, telefono o passa di qua. Ho freddo, ma tu con le mani mi parli, mi scaldi, ma che tranquillità. Tu mi infiammi, mi accendi, mi guardi, mi porti in un angolo di felicità. Mi basta anche solo se parli, ah, la tua bocca che brividi mi dà. In questo mondo siamo sempre più soli, mentre lo dico lo so ti commuovi. Una notte infinita con tanti fantasmi, è un trucco la vita, non bisogna fermarsi. Ma